Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato il suo momento. Ieri sera è stato presente qui nel Groove Master Studio, ma questa sera è protagonista di questa puntata, come sempre la domenica sera, una puntata jazz qui al Soundcheck di Radio 24, ed eccolo qui il nostro Giuseppe Bassi, e per chi lo conosce bene, fratello Joseph Bassi. Pace e swing a tutti. Io ho già avuto il piacere di averti ospite qui al Soundcheck, oltre al fatto che poi ci conosciamo bene musicalmente, abbiamo fatto tanti concerti insieme e continueremo a farli, e già nella precedente occasione abbiamo raccontato la tua storia, una storia molto bella, molto romantica, perché tu poi hai preso lo strumento in mano, che è il contrabbasso, voglio essere preciso, dopo aver avuto una sorta di crisi mistica spirituale. Esattamente cosa successe quando eri ragazzino? Beh, all'età di 13 anni, ormai quasi tutti lo sanno, ebbi una chiamata. Una chiamata. Una chiamata dal Signore. Da quale Signore? Da Gesù. Gesù. E quindi sognavo di intraprendere, se così si può dire, la carriera monastica. Ma questo perché una chiamata, una visione, ecco, una chiamata, non una visione, ma una chiamata dal Signore, perché avevi fatto un sogno, che cosa? No, mi piace approfondire. Andavi a messa tutti i giorni, quindi hai sognato, che ne so, il parroco, il crocifisso, che cosa? No, è sicuramente l'esperienza cattolica, quindi la frequenza della Chiesa, la lettura, lo studio della Bibbia hanno influito. E poi c'era anche un aspetto romantico in un ragazzino di 13 anni che idealizzava la vita monastica sulle montagne, con gli uccellini, con... Francescano. Esattamente, insomma. Da Francescano. Da Francescano. Quindi poi alla fine hai abbandonato gli studi tradizionali e i tuoi genitori ti hanno portato dove? Io abito a Bari, sì. È molto vicino a San Giovanni Rotondo, per cui l'esperienza dei padri cappuccini francescani a Padre Pio di San Giovanni Rotondo era la cosa più diretta, quindi ho cominciato a frequentare moltissimo il convento. Ecco, hai frequentato moltissimo il convento, poi un giorno lo hai abbandonato per dedicarti completamente alla musica e allo studio del contrabbasso. Che cosa successe? Successe che, insomma, come può capitare spesso in quel momento adolescenziale, le pulsioni ritmiche ed erotiche, questo volevo dire, hanno avuto il sopravvento e quindi non potendo conciliarsi con la carriera monastica, ho scelto il contrabbasso e il quindi... groove erotico, diciamo. hai scelto quindi quello che io considero il lavoro più pericoloso del mondo, che è quello del contrabbassista di jazz, no? Perché girare soprattutto in città complicate, ma anche Roma, no? O New York, magari senza macchina, in metropolitana con questa bara, scusami, sulle spalle, è difficile. Guarda, New York, ti dico solo, a Times Square sono caduto dalle scale col contrabbasso di un mio carissimo amico Joseph Lepore, distruggendolo in mille pezzi. Oh mamma mia, che disastro. Va bene, però tanto per raccontare le storie di musica qui al Soundcheck, e questa è una storia bellissima, quella di Giuseppe Bassi in arte e fratello Joseph Bassi, nuovo album per lui, protagonista in duetto insieme al bravissimo pianista italiano From Gaeta, Domenico Sanna. Anche lui sta andando molto bene a New York, presto si trasferirà, lo sappiamo, con il suo Brooklyn Beat, il suo progetto, ma qui sono insieme Just You, Just Me, il titolo di questo album, una produzione giapponese firmata Albore Records, il brano una composizione di Duke Ellington, Billy Strayhorn, un classico intitolato Daydream, e il brano mi fa impazzire. Daydream di Duke Ellington e Billy Strayhorn nella versione di fratello Joseph Bassi con il suo contrabbasso e il pianoforte di Domenico Sanna, protagonisti di questo album per Albore Jazz, etichetta giapponese, intitolato intitolato Just You, Just Me, che questa sera presentiamo proprio con nostro ospite fratello Joseph Bassi. E caro Giuseppe, visto che siamo per andare all'informazione, ci andiamo con lo swing di un grande maestro, Oscar Peterson, con Ray Brown e il batterista Ed Thigpen, una vecchia registrazione dall'album We Get Requests. Il brano è D&E di John Lewis. Questo è lo swing di Radio 24 questa sera. Soundcheck. Il suono della musica. Sono impazzito al primo ascolto, mi sono innamorato al primo ascolto della voce di Shine Steel, ma anche di questa operazione bellissima swing groove con il contrabbasso di Christian McBride in evidenza, che sostiene la vocalità di Shine Steel in questo brano intitolato Paper Bag, una composizione di Fiona Apple, quindi una produzione rock in origine trasformata da questi campioni di musica, e brano che troverete nell'ultima pubblicazione di Shine Steel intitolato Rise. Perché ho suonato questo brano? Perché questa sera il nostro ospite c'è fratello Joseph Bassi, nato come Giuseppe Bassi, poi i musicisti hanno saputo di questa storia incredibile, storia monastica vissuta da Giuseppe Bassi a 13-14 anni, e anche per le sue esperienze americane alla fine si è trasformato in fratello Joseph Bassi. Nostro ospite è Christian McBride, mi sa che a New York l'ha incontrato. Christian McBride lo incontrai nell'89 a Bari. A Bari. Suonò il mio contrabbasso. E siccome era il più piccolo della band, suonava con Carl Allen e Benny Green, non riusciva a socializzare con loro. Socializzò con me. E siamo fratelli, siamo grandissimi amici. Io e Christian siamo davvero amici dall'89. Ci scriviamo, ci facciamo gli auguri per Natale. Lui mi spedisce i suoi dischi quando... Che poi è importante avere tanti amici colleghi per un contrabbassista, proprio per la difficoltà di poter trasportare il contrabbasso, quindi è sempre meglio avere una rete, un network di bassisti, perché poi quando, certo, si va in giro, che ne so, nel nostro caso, se andiamo a Torino o Milano, tocca sempre chiamare qualche collega per farci prestare o noleggiare il contrabbasso. Dovresti proprio mettere su un'organizzazione di questo tipo via internet per agevolare, perché a volte si hanno proprio problemi, un'applicazione per iPhone, ecco, perché il contrabbasso, no, se ne trovano tanti, però il contrabbasso deve essere settato per fare jazz, per essere pizzicato. Che differenza c'è? Scusami, sono curioso. Beh, il pulling strings è il suono del jazz, così come il bowing Per tradurre, jazz è quello pizzicato mano destra che... Bisogna tirare una corda importante, che non è la corda della chitarra. È una corda importante. Con tecnica, avere un bel peso e tirare, ti spezzi le dita all'inizio, insomma. Devi fare swing magari a velocità metronomiche importanti, devi essere allenato, avere anche un bel avambraccio, un bel muscolo. Per questo motivo si usano delle corde specifiche nel mondo del jazz, e delle corde specifiche nel mondo della musica classica, che non suonano per entrambi. Cioè, quello che tu fai con il pizzicato non lo puoi fare con l'archetto. Tu stai continuando a studiare con l'archetto, anche perché in famiglia tu hai sposato una eccellente contrabbassista di musica classica, che è stata perché adesso vive in Italia, primo contrabbasso dell'orchestra sinfonica cinese a Taipei, lì a Taiwan, giusto? Sì, è vero che una volta vi hanno trovato te e tua moglie sdraiati nel letto con in mezzo il contrabbasso? Una leggenda metropolitana. Purtroppo è vero, perché purtroppo è vero. E che letto avete? Una cosa gigantesca. No, abbiamo un contrabbasso del 700 che io portai a restaurare, sì, e quella volta non lo voglio appoggiare a terra, quindi lo misi sul letto. Oddio, va bene. Allora, Bassi San, Just You, Just Me, nuovo album per Alboré Records. Sì, questa è una produzione giapponese, ma si trova in Italia, in internet, iTunes. Sì, è diffusissima su tutti i canali. Perché ne dovremmo parlare, no? Certamente, no? È diffusissima su iTunes, su Spotify, nei negozi più importanti di dischi che ancora continuano. E allora sentiamo proprio la title track, Just You, Just Me, Domenico Sanna e fratello Joseph Bassi, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. I love you. Ebbene sì, questo brano si intitola I Wanna Get Happy, brano scritto diversi anni fa e poi inserito nell'album New Joy proprio perché fratello Joseph Bassi, che è nostro ospite questa sera, mi convinse a utilizzarlo. Però insomma, un brano completamente diverso dal mondo poi sonoro presente in New Joy. E infatti è il brano che chiude il disco. Eh sì. E lo chiude in una maniera stupenda, meravigliosa, è proprio un motivo jazz con tanto swing. Eh sì, una celebrazione della nostra passione, del nostro amore per lo swing. Io ti voglio ringraziare per la partecipazione e farti complimenti per Just You, Just Me, questo album in grazie duo insieme a Domenico Sanna. Fai complimenti anche a Domenico, anzi lo chiamerò, glieli farò personalmente, siamo sì, molto amici. Prima o poi verrò a vedervi dal vivo, so che state girando per club, ma c'è un altro duetto che ti ha visto protagonista ultimamente, quello è molto curioso, vorrei vederlo sul serio, con un altro signore, un altro amico formidabile musicista, quello che io considero da tempo il miglior bassista elettrico al mondo, che è Dario De Ida. Come fa, come si vive un duetto fra contrabbasso e basso elettrico? Beh, soltanto con un musicista come Dario si possono, credo, non è facile avere questo tipo di audacia con un bassista come Dario, perché Dario sul basso, lo sai meglio di me, è padrone di un'armonia che soltanto lui può produrre. Beh sì, insomma, uno che fraseggia sul basso come un sassofonista e propone sul basso armonie e accordi come un chitarrista e un pianista, certo, insomma, è una cosa rara. Per non parlare poi della qualità del suo suono, che è unico al mondo. Beh, ma è un maniaco lui di quello, lo sai, certo, no? Certo. Cioè, per quanto tempo perde sull'amplificatore ogni volta, visto che cambia l'ambiente, che cambia l'amplificazione? Guarda, ti dico, perde abbastanza tempo, anche se poi in duo devo dirti che si contiene, perché è un concerto talmente acustico che cerchiamo semplicemente di produrre il suono più acustico dei due strumenti. Con lui ormai siamo 2 anni che si suona e tra un poco documenteremo questa bella storia d'amore tra due colleghi contrabbassisti. Allora, questo tanto per ricordare anche Dario De Ida e salutarlo, ma torniamo alla musica e con questo brano chiudiamo questo nostro appuntamento con fratello Joseph Bassi. Noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre alle 19:15, sempre soltanto su Radio 24. Ancora complimenti, tu mi dicevi che con tua moglie vi fate lezioni a vicenda, certo, e a tua moglie hai impartito una lezione sul blues e lo fai, certo, molto spesso, quindi vorrei sapere se questo Zong Kui Blues è dedicato a tua moglie o di che cosa parla. Zong Kui è... Zong Kui, scusami la pronuncia, non Zong sono ancora Kui stato nella a Taiwan. Nella mitologia del mondo buddista è un diavolo ed è un esorcista che dagli inferi sale sulla terra. E canta il blues. Cantando il blues, io diciamo l'ho ringraziato suonando un blues per lui, perché lui viene nei sogni delle persone per catturare quei fantasmi che agli stupidi impauriti come me turbano i sogni notturni. Just You, Just Me, il titolo di questo album, fratello Joseph Bassi, ovvero Giuseppe Bassi con Domenico Sanna, per chiudere il soundcheck, Zong Kui Blues.